attenzione, binario 21, che bello, che bello. Ora, attenzione, binario 21, se mi ascoltate, che bello. Attenzione, binario 21, gamba. Stamattina è andata a spedirlo, io l'ho convinto che l'avesse spedito, invece è andata a spedirlo, siccome c'era San Nicola stamattina hanno chiuso sia le banche, le poste, tutti quanti. Chiappa, ti è andata bene. Sì, però se quel pacolà non ritorna, allora bisogna andare ai carabinieri. Normale, tanto se ci abbiamo indirizzo e tutto, non c'è problema. L'indirizzo già c'è, e chiappa. Beh, stiamo scherzando. Perché già è troppo che non è arrivato. Se loro, secondo cosa ti dico loro, io avrei informato subito i carabinieri. Aspettiamo adesso. Ma secondo me è successa qualche cosa un po' all'interno. Furto. Ma dico, è successa qualche cosa, non è possibile. Non rispondo né tutta la sera, tutta la mattina che ho chiamato 50 volte di mattina, perché ero convinto che mia moglie avesse già spedito. E ho chiamato per avvisare, no, che stavamo sperando e che c'era quel problema lì. Se si ricordava, perché magari ce lo trovano lì, non so per che cosa l'ho mandato. Allora gli ho telefonato di mattina, di sera, pomeriggio e cose, niente, sempre libero ma non rispondeva nessuno. Che chiappa, adesso vedi cosa ti dicono, eccetera, eccetera, il baracchino deve saltare fuori, deve saltare, per forza. Altrimenti io gli avrei detto, guarda, a me il baracchino non mi salta fuori, io sarei costretto ad andare al comando dei carabinieri a fare subito la denuncia. Quindi toglietelo fuori questo apparato, perché a me non me ne frega più nulla, gli avrei detto. Immagino spesso, secondo me si sono separati. Io penso che quella signorina lì stava col tecnico. L'idea che mi sono fatto io è tanto, poi non lo so se è così. E magari si sono lasciati e cose, si sono separati anche nei cosi, perché lui è da un'altra parte. Maurizio è da un'altra parte, lei è dall'altra, capito? Che chiaro, vabbè, comunque non sono problemi. Non sono problemi suoi, no? Cioè non sono problemi vostri. Sono loro che ce lo devono mettere il problema. Questa cosa a portarlo c'è difficoltà a quanto pare. Pare che sia andato a New York a pigliarlo. Allora cosa è arrivata a Milano? Allora, in tre o quattro giorni gli è arrivata a Milano. Riportarlo. Deve arrivarlo, deve mettere lo stesso tempo a riportarlo qua a Sassari, in Sardegna. Se tu non me la arrecchi entro quei termini, cioè se no devo prendere provvedimenti, perché non esiste. Non vedere, no. Vabbè, già mi hai capito. E comunque, noi l'abbiamo sollecitato, anche con la personale gli ha telefonato e gli ha detto che stavano aspettando che il tecnico glielo portasse. Allora metà comunitari! Chiappa, questo sì. A me non me lo restituite, io chiamo, cioè, mi informo che il voto l'hanno dimesso, perché no, non esiste. Infatti, l'ho detto a Giuseppe, gira, non conferma che ha spedito con l'alimentatore, se non torna più né uno né l'altro. E addirittura non stanno più facendo manco le connessioni, le modifiche agli apparati, niente. Così è, che sono mezzo casino. Sì, sicuramente. Ecco che il tecnico non c'è più, non esiste più, quindi non possono fare queste modifiche, vendono solo i pezzi, poi le modifiche le dobbiamo fare noi. Chiaro, qualcosa è successa, però qualcuno ha un macchino da restituirlo. Non ho preso la persona più valida che c'era lì dentro. C'era tutte le modifiche, ti cambiava le connessioni senza chiederti una lira. Niente, non ti faceva pagare nulla per cambiare le connessioni. Purtroppo, quando succedono certe cose. Ah, io ho un'idea che si siano separati, magari erano... Che c'è il suo nome, capito? Company. E tu guarda l'indirizzo che c'è su internet. C'è scritto il suo nome e poi è Company. Chiaro, sicuramente è successo qualcosa. E vabbè, ma le cose che c'erano da prima bisogna risolverle, no? No, devo credere già che bisogna risolverle. E sicuramente la roba di cornamine, roba del genere. Chi lo so. Capa, tu stai uscendo con pochi watt adesso, come sta andando? Benissimo. E Marcolino mi ha scritto una cosa, però stai imparando già la macchina a scrivere. Ah, è andando bravino. Capa. E la macchina a scrivere che c'avevo addirittura a casa di mamma. Io si impara in fretta. E Marco poi sta sempre scrivendo, gli piace. Capa. È bello si scrivere. Anto, papà ti vuole dire una cosa. Dimmi. Che Marco sta aspettando una cosa per Natale. Ah. Rovina cosa, eh? Cos'è, la PlayStation? Ma la PlayStation ce l'ha già. Quella che avevo perso, te lo ricordo. Ah, quella farina là. Nintendo DS. Certo, tornava a perdere. Ma non lo so se Gesù Bambino è contenta, perché sta facendo da moneta. Certo. Questo lo deve tenere anche stretto. Ma non li rugava più da casa. Se lo porto Gesù Bambino da casa non lo puoi più. Perché io sai quante volte le ho detto, non lo togliere da casa che lo perdi, non lo togliere da casa che lo perdi, dimmi chi ve l'ha fatta. Anche non va a capo. Vicino era un capo di fuma. Ciao, io se da bambino lo sai che avevo di mettermi tutto in tasca. E che cosa, la roba mia o la roba tua? La roba mia, qualche volta anche quella degli altri. Però se me lo chiedevi ce l'avrei. E Marco? Marco quando andava a casa dei ragazzi prima aveva visto di prendersi i giocatori gli piaceva. Ogni tanto telefonava un'amica. Mica Marco si deve aver preso qualcosa di mio figlio. Capo, può succedere. No, io ci ho sempre visto mettermi la cosa in tasca. È per quello che difficilmente l'ha perso. ma quello non gli ci stava in tasca, era grande. L'ha appoggiato lui sicuramente quando io ho comprato il gelato, l'ha appoggiato perché lui non aveva le mani longhe da tirare. Questo boh, non posso così, c'è sempre quello che ha le mani lunghe. Comunque, Anto, fuori di testa sarei tu. No, ho detto fuori di testa. Mi si passa per il microfono, papà, non so più cosa vuoi. Si è offeso, sì. Io non ho detto così. Non va a gabbo a lei, tanto, non fuori di testa, non c'hai testa. Gabba. La cosa più giusta. Non ci pensano, questa non ci pensano, questa è cosa. Sono bisogno dello Jugend, chi c'ha ragione. E il giorno c'aveva un borsellino con 3 euro che gli avevano dato, gli aveva regalato la zia. Era sempre con questo borsellino in mano e con questo, con questa PlayStation, con questa Nintendo. Poi siamo andati lì al McDonald's a comprarci il gelato. Gli ho detto dammi questo borsellino, esci, che se no non puoi mangiare il gelato. Per liberare la mano, no? E invece lui cosa ha fatto? Ha piegato e ha appoggiato pure. E l'ha messo da buio, quando era mica a me, e ti ha detto, no, Nintendo dove va? Nintendo, papà, Nintendo, questo comincia a uscire di gabbo, non comprende più niente. Gabbo. Non se ne ammenta le cose. E poi già costa poco, questa era tu, c'è 178 euro. Se lo so già quanto costa. Che lui ci aveva quello, non quello base, ma l'altro, quello che c'è anche la telecamera, che fa le foto, eccetera, eccetera. Fa anche la macchina fotografica. E gabba, quello che trasformava le voci, sì, già me lo ricordo già. Guarda che vede volte non sono solo i bambini, attenzione, sono pure rimasti i miei. Vabbè, distratti. Se te ne dico una, oggi sono andato a fare una consegna, mi hanno pagato in contanti. Vi do... Perché? Aspetta. Praticamente li ho dati al coso, diciamo, a uno dei fili principali. Fanno indicare, dice, ho fatto 20 euro, dopo ci conta, dice, ma come che ho 20 euro? Ma non male è venuta una ragazza che ha fatto... Guardi che ha perso 20 euro. Ah, Giudizio, lo vedi che vena? Sei tu che le pesci. Ah, ma si parla di dove? Il figlio. Che ha fatto? Che ha fatto? Però stato me lo stava contestando a me, io gli avevo contato i soldi, ero proprio sicuro che c'erano, sicuro proprio, perché li ho ricontati. Certo, infatti la prossima volta cosa ha fatto? Riconto da un saetto. Io ho detto, riconto non perché non mi fidi, ma riconto. Ti raccontali che cavolo, ma qua mancano 20 euro. No, io ti ho dato i giusti, ho detto. È arrivata questa ragazza, meno male, è stato onesto, ha detto, guarda, voglio che ho perso 20 euro da mano. Vabbè. Ma poi certo l'aveva trattato da guglione. Anche perché non mandava... Per dirti no, tante volte. Oh, il trabaglio che vedi tanto oggi, mamma mia. Mi ha lasciato tutto arretrato, consegne di tutti i generi. Ci ha gastato pure a sasso. Scusa, ma no, no, no, no, non l'ha fatto qualche collegato quel lavoro. Sì, ha fatto in qualche maniera. Oggi se hanno lavorato. Cosa? Sera non lavorate. No, di sera no. Già mi volevano far lavorare anche di sera. Scappa. Allora avete ancora fare si collega dove? Ah, se ne affuti, c'è un consiglio da giovedì da fare. Immaginati tu, c'è una signora aspettando l'acqua a capo da giovedì. E io Ma infatti già la lettera il capolino, se hanno macchinino che succede un casino, e non lo comprendi niente. Io gli avevo detto, cosa dici, cosa poi ti metti contro tutti, a fare, no, non mi piace a me. Già se ne accorgerà lui. Cazzo, mi ha lasciato con il furgone carico di pedane, mondezza, di tutto, poi ero un capitano della testa urbana. Andavo in remoto e va via, la nafta riserva. Due lampadine fulminate non ne hanno cambiato, c'era la spiace, sono andato a fare le cambiare, gli ho messo la nafta, ce l'ho pagata 5-5 di tempo, poi vabbè tutte le consegne che c'erano, sono andato in due negozi c'erano consegne, da giovedì, e lunedì io non consegno, dovrei fare solo le consegne natalizie adesso, invece tocca fare anche quello che l'hanno fatto loro. Poi a che punto si va, tu dice che non c'è lavoro, cazzo. Sono pigliosi, tutte le cartine sparse dei sedili davanti, tutto quanto, bottiglie di acqua aperte, messe dentro le cose da buttarcene via. Oggi è tutto ballo qui. Poi dicono che non c'è lavoro, che sono travaglie. Poi a questa gente l'ho pigliata, guarda. Siamo perdere. Niente a cui da, per carità, non so solo perché, per come riescono a tenersi queste persone qua. Sono furbi di cui non si fanno, si fanno notare queste cose qua, capito? Loro li vedo sempre con buon occhio. Sono un po' strano. Io da titolare, se non vedo che non lavora, ti ricordo, ma farebbe da culo ti domando. Ma il bello è che non protestano i capinegri, se avessero protestato qualcuno avrebbe telefonato al cliente che non è stata arrivata, non è arrivata la roba. Magari qualche cosa si sarebbe mosso, invece tutto rivaliscio, capito? Più di fase è più di ciurando. Chiappa. Stamattina con una specie di scintille sono uscite a luna, perché hanno portato una piccolissima parte di bombole, ci sono finite. Cazzo, meno male che abbiamo fatto in tempo a fornire il cliente, ovvia. Era infuocato, era stamattina, ci pare. La colpa di chi era? Fate un camionista. Quindi siete rimasti senza bombole stasera? Mattina, non poi li ha portati a luna. Ma a bordo l'avrà pigliata. E me la ti credo. Però, meno male che ci siamo arrivati tutti giusti. Devo fornire i clienti, cazzo. Se ne avevamo fatto senza bombole, se niente, non ti capo l'avevamo fatto. Proia, per carità. Ma non è preso una quantità superiore a quelle che vi servono? Già le prendiamo, ma le vendiamo anche subito. Paga, sì. Praticamente ne aveva caricato una dozzina, e cosa travagli con una dozzina? Poi da adesso dopo ti porto le altre, sempre esistente. Fattene giunta l'una, mamma mia. Aspetta un attimo, tanto. Aspetta un secondo che ci vediamo e mi fa male il collo, aspetta un attimo. Va. E c'è la febbre. Niente. Febbre, dolore di collo, dolore al braccio. Come era Pierpaolo l'altro giorno? Cavola. A prendere qualche antibiotico. No, ci ho preso un coso, un antinfiammatorio, sicuramente dove c'è l'infiammazione gli ha fatto venire anche la febbre. Sicuramente sì. Prende così adesso questa influenza di mezzo. Ieri sera stavo male. C'è visto? Non lo so, mal di pancia, forte e diarrea. Ah, quelle che sembrano dolci, sembrano anche a me. Chiara. Insomma, stavo male, ma male a vero. L'ha fatto anche a me, anche a me. non adesso, ma me l'ha fatto un periodo scorso, mi aveva questi dolori da crepare, aveva picciato in due. Mi sono coricato, domani mi è passato. Quindi dura un giorno e mezzo, poi ti passa. Ciao, e io zio. È casino. Casino altro di Rugger. In un modo o nell'altro devi stare sempre male. Via. Noi se c'erano un po' di cose da fare anche domani, un casino. Vabbè, domani un altro giorno, sarà più consegna. No, dico, lì c'è un po' di roba da fare, vada in banca, le cose, un sacco di busi dove andare. Adesso si è preso questa influenza e lo si è fatti. In casa e va. E va, capite? Ha capito, non è sentito nessuno. Capito. Ho sentito a Giuseppe stasera, mi ha detto che entrava. Oh, forse avrò avuto qualche contrattempo. Infatti. E c'è tutta la frequenza libera per noi anche. Tu Libarus. Beh. È meglio almeno. Un po' di silenzio. Cos'è, qualche altra cosa? No, no. Niente, niente. Chiappa. E comunque, la sono sbrigata bene, io ci so che ti avrei dovuto lavorare anche stasera, sei dovuto salire a Sassari stasera e poi riscendere a Porto Torre e lasciare il furgone e prendermi la moto. Perché sono sceso in moto stamattina. E invece poi me la sono sbrigata in fretta, sono salita a Sassari a Marettone e ce l'ho fatta fare tutto. Gappa, gappa. Vabbè, così che capita. Ma ogni volta quando ti fai dei programmi, stasera con quelli roba da fare, c'avevo dei programmi già in atto. Questo mi dice lasciamo tu qua e poi ti riceviamo il furgone domani mattina. No. Uno che non so se domani mattina piove. E poi quando è girata con la pioggia, no, quindi l'ho preso perché c'era bel tempo, poi si è alzato il vento, ma prima c'era scirocco, mi c'era caldo. Già, ma si è parato in moto, si travaglia. E allora, se non c'è una macchina, tu? Cosa gli è successo la macchina? La macchina l'ho portata a fare quel lavoro, ma te l'ho detto, no, quello del paraurti. Ah, ho capito. Me la da domani. L'altra macchina serviva a mia moglie perché doveva andare a fare roba di lavoro, quindi io te l'ho detto, dice no, siete che era in macchina, non ci vado, per lui dice no, no, non ti preoccupare, vai che già io già mi arrangio. Che ha fatto? Hai visto cosa serve la moto? Infatti. Se non ve l'avessi avuto era andata a piedi. Ah no, avrei preso la macchina, ma non sarebbe potuto andare lì a fare quello che doveva fare. I limiti ci sono, le cose. Purtroppo non affermi la macchina, chi c'ha ragione. Sono sì. E poi dopo pranzo me la dà. Scappa. Quando la devi usare lei anche per qualche bisogno, è quella la ragione. Infatti mi davano sempre due. Poi i figli crescono e cose, poi si può anche restare con una di macchina. Solo che se non vuole essere indipendente. Per dire, la moglie di un mio collega la accompagna al lavoro, come collega, entra a lavorare e poi si prende la macchina. Fa tutte le cose che deve fare durante la mattina, poi all'ora d'uscita viene, lo prende e se lo porta a casa. E vabbè, ma come fai? Tu devi uscirci lontano e lei deve fare qualcosa lì. No, non esiste. E infatti, per me c'è diverso. Chiappa. Cosa vuol dire lasciare la moto? Cosa? Vuole lasciare la moto, volevo lasciare. Vedete tu a Porto Torres. E voleva lasciarla lì e salire col furgone e consegnare stamattina, perché poi stasera non ha morto nel furgone, e poi il furgone è meglio che rimanga qua, se serve a qualcuno per qualche cosa lo salvate. Chiaro, no, cosa abbiamo fatto? Non abbiamo caricato la moto un altro furgone. Davvero? Lo sai, dai, si caricheranno, vabbè, poi lascia stare il furgone, diciamo. Si carica la moto, già fatta, a me non ti riservate tutto. Sì, ma sai cosa c'è altro? Che caricarla con la moto è un po' pesantuccia, cioè, viene un po' male. Gava a te, faccio di cose, anda, due righe di scifoli, a biglietti. Sì, ma è alto la terra, mi fuga, non è di quelli bassi, è stato quelli bassi, sì, ma di quelli alti. Cazzo, non c'è neanche la fermata idraulica, se no se la mia buccia sopra e via. E tu sei a San Dandano? Se ne è buttato un moto e tutto. Infatti, farà mia. Magari ti fai dare uno strappo da qualcuno che c'è la pedalera che arriverà a scaricare, ma poi a scendere come ti va. Quello, l'ho fatto, quando ho ingrippato con la moto l'ho salita col furgone, perché se il furgone sono andato, l'ho caricata e mi ha aiutato un collega, abbiamo caricato sopra con la tassassa il chimico, però lui se l'ha resistito, manca paragoni con questo. Ma il chimico e ce l'ha spaccato il motore? No, spaccato no, ma da quando io l'ho comprato c'era il difetto che faceva scuro il liquido, siccome c'era la finestrella di plastica, si vedeva. Faceva il liquido, l'ho entrato il dito, grazie c'era posta di uno, ho detto no, che mi scende tutto l'altro. L'ho portata, gli ho fatto vedere, no, ti assicuro che non è niente, questo qui non è odore di olio. Ma vabbè, io viaggendo, si è dovuto pum pum pum pum pum pum pum. Si è furata di notti, anche di notte. Deve fare un bel di danno quella moto, forse con motore, una volta che è entrato in mezzo. Però almeno un meccanico deve lasciamela, cosa. 1200 euro di danno sono fatto. Chiara, poteva dire lasciamela, la voglio controllare, invece di prendere il 9. Ma lui lo sai cosa stavo aspettando? Che finisce la garanzia, per non farmela in garanzia, capito? Infatti, detto, se ce la faccio, te la faccio passare in garanzia e scautare due giorni. No, la devi pagare, e vabbè. Poi mi ha detto, no, è passato il rappresentante, mi ha detto che te la devi pagare. Detto, sì, ma da quattro e qui io dicevo questo guasto qua. Ma non c'entra nulla, e guasto è un altro. Questo si è pure la saliata, non penso. Infatti, non vedo più tornare di lì. E di era, cazzo? E quello che c'era vicino dove andavamo noi a fare i panni di Via Mendola, te lo ricordo. Ah, da Ghisso, se ti che la potente. Si è fatto di giù, come non ne va in un ciaffo? Da Napoli. Ciao. Ed è perché lotta che il buniale le moto ogni altro già rete. Ma modo di fare che non mi piace, con molta gente si è comportato male, con ragazzi produttori dice che c'era la moto, perdeva sempre uno, e lui dice, ma visto se tu devi fare la buchi è troppo, ne metti troppo. Sai, se io non ho mai toccato di una, la ricavo sempre da Edo. Beh, ha cribato tutto tanto, alla fine. Lui dice che non dipendeva da loro, che era lui che metteva nulla. Poi lui dice, non ho mai messo, ti giuro, se no te l'avevi dita, siamo in una fruttia. Proprio che non ha mai posto che ha cribato tutto. No, la portava a fare italiano, anche tu. Per in questo, che si sa che non l'ha posto pure. Te le faceva vedere e non te le diceva, ma che oggi li metti? E tu non ti preoccupare, quando manca lui, vieni qui te lo metto io. Però te le diceva. Beh, gente così vuole lasciar passare. Non ti facevo entrare in officina, Vito. Ti facevo entrare dentro l'officina, non te ne facevo vedere di nuovo. È stato proprio un disgraziato. E secondo me nascondeva qualche cosa, non ebbi idea a far vedere a cosa gli trattava. Sicuramente lubrificante di merda, cioè, costano due soldi, magari fa diamo sugli occhi. E ma adesso c'è anche Di Marzi, non può fare queste cose. Sì, sì, già le faccio. Già le fanno già. Di Marzi sono molto ricorsa, non ci vedi faccia per il barato. E ma voi tu ce la metteresti la mano sul fuoco, se è proprio così. Se la metteresti la mano sul fuoco che lui non ti metta un olio, che per esempio ti dice cazzo e ti muove una stamacca. Tu ce la metteresti, se non te ne fa vedere la mano sul fuoco che lui, cioè ti abbia messo quello lì. No, beh, la mano sul fuoco avrebbe un po' nessuno, niente. Non mi vedo più di nessuno. Scappa. E bisogna stare con gli occhi aperti ogni giorno. Ti sono sicuro che se non ci fossi stato io per quella centralina, l'avevo ripiazzata così, asciuttata, piazzata e non avevo visto nulla. Dopo il dito? Sì, sì, sono sicuro. Sei stato fregato. E a me mi ha detto dopo che ho fatto le piante a gas che può durare due mesi, così poi si forma lucido. E dopo l'ossido ti unisce le piste. Ma guarda, te l'ha fatto da subito. E subito l'ha fatta anche la Bena Levan. Era da Eva Trento. E quindi cosa è successo? Che io l'ho messo in moto, è partita benzina, poi è scattato a gas. No, come è passato a gas? Ha cominciato Per non gli dava i comandi. Non pigliava l'accelerata. Esattamente, perché non gli dava la dosatura giusta. Mi si è ripresa, è partita tranquillamente. E poi mi sono fermata lì. Ai punti. Ah, vedi, se c'è la benzina già vai. Beh, la benzina ce l'ho sempre, almeno metà salvatore ce l'ho. Cappa. Che se poca è aumentata, mamma mia. Di un euro. No, un euro no, ma... Allora, qua sassa dei 1,45. Giù è a 1,28. E vabbè, se si può ancora comprare giù. Ma è un furto, no? E lo so, ma chi vuole la macchina vede, beh... per prendere le altre se ti dicono no. Lo so, ma noi che non ne punimmo, che la bobine. Vabbè, ti fa una passeggiata, ci devo andare la botte. Che appagata. Allora, cioè, ma stiamo scherzando, la benzina 1,45. Cioè, ma mica c'è cioè, un furto, stanno andando alle stelle tutti i prezzi. Che appagata, per carità. Ma poi il Peghito che te l'ha fatto un po' caretto di manco, meno sei. No, che fa carità, guarda. Ha aumentato anche il gas. Vero? E io non sto facendo gas. Perché avevo il pieno quando ero in fede. Adesso dovrò farlo. Chiaro. Ha aumentato anche le bombole, hanno aumentato un bel... Solo che noi gli abbiamo messo il minimo proprio. Il gas è contento. Non lo so. Ah, sai che anche quello che c'è. Allora, via l'Italia, dopo che prendi via l'Italia, prendi quel curvone così. Quando tu esci per la 131, c'è quel rifornitore è questo che c'ha il gas. Io lo so, quello dove poi si divide la strada per quel fattore, sei lì. No, ma è voi con Nike? Sì, una volta. Ah, mi sembra se non ho letto male a 1,30. Bah, se non è. 35 centesimi mi sembra che costa. 35? Se non me le... guarda, non vorrei dire cazzata. Allora vado subito, tanto. Guarda, non è... di solito avrei fatto una bugia, Però mi sembra che mi sia girato... l'ho visto così, mi è parlato di vederne 35 anni. Se costa... se costa così, come andare lì? Sono 69, tutti quanti 67. Guarda, non ti vorrei dire una bugia. Però adesso quando ci ripasso lo guardo più bene. Ti conviene? Vabbè. Che è un bel caro, Diciamo che l'unico buono è quello della cola. Certo, la benzina sì. Cazzo, avrebbero messo il gas qua. Che sto dicendo, anche la spesa si compra bene. La spesa è buona. Ciao, ti sei dormendo? Sì, un po' senti, non sono. No, non mi sto dormendo. Sto addormentando. Florini. Ciao, va. Nulla, canto d'ostra. Quanto cosa? Hai chiuso anche la lettera, l'hai visto l'articolo? Ti ha chiuso? Lettera. Quella che fa le vernici. Le vernici lecca, non ce ne presenti. Le vernici conosco quella. Come si chiama? Quella col cane, come si chiama? Max Meyer. Ma quella lì è una delle marche più buone, la vera. La Meyer, la Lecker, poi ce n'era anche un'altra, delle più buone. C'è questi stabilimenti qua, via, 468 lavoratori senza lavoro, via. E dove c'erano gli stabilimenti? Lontana, mi sembra, una di Cagliari, no, non me lo ricordo bene. Via. Metto casino. E per quello leggi sempre il giornale, stanno aumentando rapine, stanno aumentando le vendette, di tutto, beh. Stiamo tornando agli anni passati. Questo leggi il giornale, una ogni adibine, quasi una ogni giorno. Io già ascolto il telegiornale, leggo anche al computer le cose. Oggi stavo leggendo un articolo dove parla dei coloranti. I coloranti che mettono a mezzo la roba da mangiare. Ui. E ce ne sono pochi segnalati. Merendine, crudino, amaro cora, tutte queste cose qui sono tutte con conservanti nocivi alla salute. Sì, se stiamo a pensare a queste cose guai. Ma bisogna pensarci anche, infatti sono quelle che ti fanno venire il cancro. Carità. Addirittura c'è un additivo che mettono la roba da mangiare che si chiama E320, che è il più dannoso e più nocivo del mondo. Ramara. Quella di rubare fa mezza Romagna. Non è solo io, però. Conservarlo, e per conservarlo più a lungo. Mettono un poco di schifezze. Pino acidi, tutte queste cose qua fanno male. Gappa gappa. Ioia. Come tu lo sai, Antonio, il latte, quando tu lo giri, il cartone del latte, ci sono quei numeri sotto. Quindi, a me me l'ha spiegato il cugino di mia moglie, che è finanziere, ma c'è lui in finanza, mi ha spiegato come funziona. Allora, ci devono essere i numeri dall'1 al 6. Se ne manca uno solo, quelle lì sono le volte che quel latte lì è stato riaperto, riciclato e rimesso in vendita. La miseria. Praticamente se c'è uno, poi due lo salta, non c'è, c'è tre. È stato messo due volte già riciclato e rimesso in vendita. Si può fare? Sì, fino a sei volte. Per legge si dà 6 volte, ciao Luca. Capito che si è rotto? Davvero. Tra vischi, qualcuno ha dato un colpo troppo forte. Tu lo diranno, ho fatto. Io lo vedo anche esterno, se vuoi te lo punto esterno. Ci sono quelli alimentati e quelli... e quelli da alimentare. Ma se non funziona il suo computer manco questo esterno manda. Sono infatti, c'è tutto un sistema operativo già. Questo è 80 giga, ma se domanda lo guardiamo un po', quanto costa? Per cui stavo giocando al poker, no? Vabbè, ma però è arrivato colpo forte, la verità, ho puntato, c'è una carta buona, anzi il motto non va più, anche non me la futti più nuda, basta, mi sono rotto le mani, tanto questo è consigliato, non va, e non va, perché non va. Quando l'ho appoggiato, un colpito cazzo si è bloccato, cioè non riuscivo più a creare le pagine di internet. Ho aspettato l'altra, l'ho riacceso e mi è uscita la schermata, praticamente non fa più la disk, non fa più. La disk c'è gira dentro, no? Non va più, si è rotto. Che pare dove ci vai a pigliarti così si giochi così, ma non mi ci manca una, come fa a prenderti così? Non gioco, va, per carità, e vabbè, non devo andare così già. Tanto, prima andare così si vuole. E vabbè, ma lo so pure qui da sempre. E vabbè, ma se vediamo domani se riesco a fare qualcosa. Devo rimettere la mano, tanto non avevo niente di interessante, capito? Niente di che. Perché adesso devo rimettere il tuo sistema operativo, casino. C'è qualcuno che si intende. No, non va, non faccio l'elettrico, si sente già, non ti va a rischio, ce lo mi inserisci dalla rimettazione e parte. Non va. Parlando. Pronto. Io non l'avrei mai fatto. Abbiglia in culo lo poker. Il computer è il computer, il poker ci può lasciare stare. Ma infatti, chi è avanti? Chi è vuole entrare? Questo non sta uscendo, boh. Allora, che è qualcuno. Lo sta uscendo! PlayStation si incazza, si vede l'esaurimento, si può essere che dice, ma questo potevo farci un accidente, mi è scappato, questo, insomma, salta, di un casino lì di andare a PlayStation, e vede che sta vincendo si mette a saltare. Lo so, già, devo dirti, poi devo andare così, non potevo andare diversamente. Forse il colpo lo dà, il colpettino lo dà, non forte, perché non era forte. E mi si è inchiodato, si è rotto il corso. Ma dice che era già rispettoso la piova in questo hard disk, perché ogni tanto aveva problemi. Perché questo computer già da 4 anni ha lavorato. Più avanti? Esce la prima parola. Aspetta, chi è Giuseppe, tu sei? Chi è avanti? Cosa stai dicendo? Ma se fosse stato Giuseppe avrebbe preso una fa pari. Ehi, a chi è? K2. Beh, K2. E c'è tutto quanto a sghimbisci. Stacca la lineare, vediamo un pochettino. Non può farlo perché... Ma vuole controllare tutto, non stai uscendo. Se riesci a tratti, non esci. Adesso? Io ho detto adesso e poi non si è capito più nulla. Documentazione com'è? Ecco, perché la scarica qua, la scapola niente, K2, mi senti? È forte il chippo! Ma tu sei uscito, ma c'è il problema di microfono, prova, c'è la porta per più volte, ma è colpo nel PTT, prova a vedere, gioca anche col PTT. Con lo spinotto, fa che cosa, io? Mi prendi anche il tavolo. Casino Giovanni, possiamo mappare tra un po', vabbè. Io ci sono già fatta l'entrata a travaglio, mamma mia. Non mi hanno fatto respirare, nemmeno quando sono entrato. Bianco per me che devo fare una cosa. Già, casino, avanti, cappato. Vedi un po', 1, 2, 3, mi senti? Sì. Ecco, allora era il microfono. Tu vuoi dire un microfono, se non riuscire a un microfono. Poi c'è anche il filo mezzo staccato, capito? Fa massa, tocca non tocca. L'altro va bene. No, l'ho cambiato, ne ho messo un altro adesso. Niente, come ti sta arrivando? Quasi 9:20 il segnale. Andate, dai, buono. Gianni, mi senti? Buonasera comunque a tutta la ruota. Che capo che ti sento, capo? Buonasera anche a te. Mi hai sentito? Ma me basso mi sembra. Guarda, sei Santiago 7, comunque ti sentivo più forte le altre volte. Come mai sei così basso già? Perché sto facendo con pochi watt. Abbassati il watt. Vediamo un po' adesso come mi ascolti. Guarda, vedere 1, 2, 3. Adesso sei Santiago 9. Tocca quanto l'ascolti. Guarda a me quanto mi ascolti. Allora, prova. 9 più 30, radio 5 super 5. Sono di fronte io, già capito. Lo so, più o meno piazzatura, quella zona lì. Attacchiamo. Vabbè. Ma sì, lo so. Sto parecchio, sta andando bene allora. Se io lo ascolto bene, non c'è problema. Aspetta un attimino, aspetta. Va bene. Mia è 9 più 20, è a picchi positivi. 35, bella, va bene. Una è normale, 5. E va bene. Ma l'altra è piazzato, K2. Come? L'altra ti è piazzato. No, c'è sempre quella, però me ne hanno dato un'altra. L'ho provato a piantare ma ci sono molte stazionarie. Ho capito. Andava, aspetta. Ok. L'antenna conta molto, conta molto. E se provo l'apparecchio c'è cioè, il 48. Sì, c'ho la 48. Pasco lui, tu dimmi una curiosità. Signore, dai, io vi devo lasciare. Buonanotte a tutti. A tutti in circolare. Tanto buonanotte, non troppo a copre domani, sentiamo. Tanto buonanotte, alla prossima, ciao. Ciao Antonio. Dai. K3, K2. Dai, c'ho un sacco di cose da mettermi a posto e non posso più rimanere qua. Dai, ce la risentiamo, ciao a tutti. Ciao. Oh Luca, a te mi viene una curiosità. Dai. Ma infatti io sono un paio di volte che di fuggite incontro una persona, ma non sono sicuro che sei tu, quello con lo zip giallino, tu sei. Zip giallino no? Allora, ti ho trovato una volta a Mar Daniele, io stavo scendendo il tuo entrano, ma tu eri. Zip giallino non ero io, è bianco. È bianco comunque, è chiaro, adesso non mi ricordo. Ma se ti becco sono io, sì. Beh, tu se mi vedi a me non mi hai riconosciuto, forse tu non l'hai visto. Io ti ho visto una volta da Franco, una volta c'è un tacchino, non so per che cosa, però l'avevo già detto mi sembra, no? C'è uno scuterone. Sì, per quello quello siccome subito volevamo fare, non mi ricordo se eri tu, se ti ho visto che ha anche incrociato il bordo due volte, però non sono sicuro che sei tu, capito? Adesso non mi ricordo, comunque sei rimasto un pino un po' posto, vai, tu quello lì sei. Kappa, kappa, positivo. Adesso vai, se ti ricordo, volevamo tu lì, tipo uno scarabeo, vai, vai, 125, più o meno, non so di che marca sia, aspetta. C'era un altro ragazzo uguale, va molto lì, che gira qua al monte lo stesso, però è nera. È un Kimco, una Kimco, cioè una G. Un Kimco, giusto, giusto, sì, sì. Lei se ti ricordo ti riconosco, dai, tranquillo. Caffa. E allora Gianni, Giuseppe Tornado che ti ha fatto? Giuseppe Tornado probabilmente non è entrato stasera, ma c'era anche ieri. Però non abbiamo fatto la mia fine, perché io sono da un po' di tempo che non è. Lui è stato un po' di tempo fermo, poi è entrato di nuovo. E insomma, dipende da quello che da fare. L'apparecchio è solo un passatempo. Si accende quando si può. Sembra normale. Ascolta Gianni, mi hanno regalato questa antenna, un tipo che abita vicino a Portofiore, un'antenna però è alta, come adesso posso dire, un metro e quaranta, 1,20 m, e c'ha 4 radiali. Come posso fare? Perché io l'ho piazza però mi dà le stazionate. Sarà qualche antenna VHF, non bisogna avere prima se un'antenna 27. E per VHF sono diverse, perché io ho provato a piazzarla e il segnale sempre normale, però mi dava le stazionarie. Bisogna vedere, ma lui non ti ha detto che tipo di antenna è? Mi sembra che è di VHF, ma io pensavo che andava bene lo stesso. Ah no, no, è tutta un'altra frequenza. Ah capo, va bene. Quando metto così corta con 4 radiali, 27, così gorsi, non ve ne... Ok. Poi tratta proprio la frequenza lì, no? Perché ogni antenna ha la sua tarattura. VHF ha una tarattura, la 27 ha una tarattura. È così. Sicuramente l'antenna è VHF già. Ma poi la si può che sia, come si chiama l'antenna con radialini corti? Come si chiama? Là, non viene il nome adesso. Era 27. La Grand Prix, così. No, ma non ce ne ha corti, la Grand Prix ce l'ha lunga. La Grand Prix ce l'ha 275 radiali. C'è la Mini Grand Prix che magari è più piccola. Aspetta, K2, ma con l'antenna lì cos'è? In alluminio? No, è tutto un tubicino di plastica che va conico e dentro ho provato a togliere un tappino dalla punta e dentro ci vede un, diciamo, il rame, là, il filo di rame che ha. Avvolgimento. Capito. Vabbè, non lo so, sicuramente anche la VHF è quella. Quello è l'unica, guarda, ma avanti qua, non sbagli. Magari, guarda, me la vorrei mettere con tutto il cuore, ma qua è un casino. Casino sì, perché... Allora, ti spiego. Se tu hai quel tipo di antenna, va bene, ha un tipo di ricezione. Questa è cosa adesso parlo, Quando cade antenna, la ricezione è molto, molto superiore. Perciò, cosa succede? Che poi non mi ricolpi. Perché se magari tu sei qua, facciamo un esempio, no? Io ho un malacchino, un altro tipo di apparecchiatura, non un malacchino. Per esempio, tu sei qua, stai parlando con Gianni, no? Siccome io ti arrivo forte a te, io magari sono al 10, tu magari pensi che io ti stia disturbando, ma c'è no, sono colpi che stai prendendo. Ascolta, siccome io adesso tipo, a te ti sento forte e chiaro, però in sottofondo sento sempre rumore. Con un'altra antenna questo rumore sparisce o è la zona dove sono io? Quando parlo io c'è del rumore di sottofondo, così, confermi, non è pulito allora? No, è pure pulitissimo, però quando molli, io quel rettilo, me lo segna a 3. Ah, quel re, ma non è niente quello. Quello ti aumenta, è normale, no? Beh. E pulitazione ti aumenta. Io per esempio ce l'ho, aspetta, a 5. Io ce l'ho a 3, pensavo che era anche troppo. Comunque Gianni, a te ti sento un molto disturbato, prima ti sentivo chiaro come Luca, la verità. Non so da cosa possa dipendere. Ho fatto vediamo un pochettino se alzo il fatto dell'apparecchio, io abbasso il tipo di questo. Abbasso lo stesso già, ma sei di meno adesso perché è abbassato. Vabbè, quando sei K2? Guarda adesso, guarda. Fatti in due, vai K2. No, dico, questa antenna, ma è normale che io se sto parlando la lancetta dello svizzere sta oscillando. Non fa niente a quello, se guardo te... oscillando in che senso? Saliva a scendere, non tornare indietro. Allora, adesso che sto parlando sta... il segnale mi sale a più 30, quando parlo scende appena appena e poi sale. Non è niente, futti i diti. Vabbè, vai Gianni, riprova. Guarda adesso K2, mi ascolto. Ora? Sì, sacca con 9, la radio è diciamo 5, dai. Però un pochettino di disturbo c'è sempre. Non so cosa dirti. Ma ormai che dici forti io, perché sono i miei... ti ho di fronte, capito? Sei di fronte a me, normale che devono mettere 30. Aspetta che guarda, aspetta. Guarda che ho abbassato un po', se no l'ho abbassato. Guarda un po', ho abbassato i segnali di watt, guarda. Sì, qui c'è Santiago 9 più 30. Alzalo a vedere. Aspetta che ti abbasso ancora, aspetta. Guarda adesso, basso basso solo, dai, 5 watt, neanche, 3 watt. Santiago 9. Vedi. Sono arrivato un attimo, Sei 9 più 30 modulato. Gianni. Non capisco come mai si dipende da lui, si dipende da me questa cosa. Vabbè, adesso. Ora. No, 9.40, sì. Capace va bene allora, non c'è nessuno. E se vuoi nulla. 9.40, sì. E vai anche proprio la sua, sicuramente. Non è niente, pensa che ti ascolti. Se non ti sentiva era peggio, ma si sente. 9 radio 5 va bene. Ha voglia. Oh vabbè, stavo dicendo, vabbè, lavorando stai K2. Più o meno lavoretti ci sono sempre. Comunque Gianni, no, non volevo dire nulla, sicuramente è il problema della mia antenna. Però ti dicevo, prima mi arrivavi molto più forte, ma è la mia l'antenna, lo so che è un problema. Ma prima magari sentivi dalla macchina e ci avevo volato apparecchio. Può darsi, non lo so. La macchina comparsa. Comunque, Cappato, tu ma uscivi tutto non bene. Tu adesso stai facendo proprio benissimo, va bene. Tutto pulito senza rumore di alternata. Tu non uscivi con rumore di alternata, tutto quanto bisacrato. Adesso vai alla grande. Meglio così, ascolta Luca un attimino che devo salutare delle persone, un attimino, vai, a dopo. Caro Gianni, è così, adesso domani mattina devo mi organizzo, vedo un po' quanto costa il nostro hard disk, lo compro e così faccio di mettere un sistema operativo, un casino, cazzo, mamma mia, un'altra rottura di palle, perdita di tempo, madonna santa. Ho comprato un sistema per scaricare la roba. C'ho anche io dall'altro computer. Ho prestato il cavetto USB, capito? Ho fatto USB e adesso appena ci metto tutto lì dentro. Quando devo prendere qualcosa non faccio altro che quel lettore lì e via. Giro di balle, va. L'ho comprato stasera a 500. Da 500 giga. Però esterno. Perché adesso mi hai formato tutto quanto quello che ho. Poi confuso con l'esterno. Ma si può fare, allora Gianni, allora, il computer, cioè il tuo portatile, giusto, no? Allora, ha un suo hard disk, lui ci mette il sistema operativo, tutte le cazzate, musica, foto, e metti quella hard disk esterno. E cosa sto facendo io? No, ma il sistema operativo vuole nel suo proprio, nel computer suo, tutto il sistema, con Windows 7. No, negativo, io c'ho ancora il Millennium, li devo mettere... Rimettere un nuovo sistema, non lo so, devo tutto quanto riformattarlo e mettere un hard disk esterno, così tutte le cazzate si mettono lì. Millennium, ma è portatile? No, l'altro. No, l'altro è XP. È XP, così, non Millennium. Millennium, non capisco. Sì, c'era anche il Millennium, è il sistema operativo Millennium. No, ma inteso. Millennium, il coso, questo operativo è, c'è Windows 7. Qualche Seven, poi c'è Vista, XP, cosa non c'è più, no? Windows 98. Capito. XP è il migliore, secondo me è il migliore, sarà, ma io mi sono trovato molto bene. Tante cose. E infatti c'è XP adesso, il Millennium c'avevo prima di XP, siccome ancora lo stavo usando Manuela e io non ne sto più usando, di quello che non me lo ricordavo. C'era Millennium prima, Windows Millennium, chiedi tranquillamente che c'era. Non lo so, è stata la metà posto il mio, vaffanculo, ma sono pentito, ci sei, dice, vaffanculo. Va. Perché la madre sta male, perché c'è la febbre, dice che è tutta rossa, di fare qualcosa, dice che ando da, che non deve essere, c'è la febbre alta. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Ciao Giovanni. Ci sono. E beh, Luca, ti aspetto.